se tutto il mondo è paese, che non puoi sfuggirgli è palese, che saranno curi quei gigli a pagarli, saranno i tuoi figli. Che grande novità, che grande novità, che grande novità, che grande novità.